Piazza Fontana è tornata di attualità grazie al film sugli schermi Romanzo di una strage. Che c'entra Paese Sommerso? C'è un filo conduttore che attraverso l'evasione fiscale arriva in Giappone. Ne è protagonista l'esponente neofascista di Ordine Nuovo Delfo Zorzi, indagato per Piazza Fontana, condannato in primo grado, assolto in Cassazione quando già si trovava da un pezzo in un lussuoso quartiere di Tokyo, al riparo dalle condanne e dalle vane richieste di estradizione del governo italiano. Le faccio la domanda più banale, intanto ha un alibi per quel giorno? Mi scusi l'impertinenza, dottor Vespa, lei ce l'ha l'alibi per quel giorno? Quando parlava al telefono con Bruno Vespa era già in Giappone, dove vive prospera con il nuovo nome di Hagen Roya grazie alle sue attività nel settore del pellame e della moda. Produce borse col marchio Oxus, ma è anche licenziatario di firme famose. Ed ecco che per queste attività nel 2010 è stato denunciato dalla Guardia di Finanza veneziana per un'evasione fiscale dal 2004 al 2008 di circa 40 milioni di euro di imposte dirette e 20 milioni di euro di IVA. Dalle indagini Zorzi è risultato amministratore di fatto di una complessa rete di società che fanno capo al gruppo Pelle Italia, formalmente controllato da società con sedi in Svizzera, Lussemburgo, nell'isola di Man e nelle isole Vergini. Evasione fiscale, poca cosa si dirà rispetto ai morti, certamente. Non bisogna dimenticare però che anche per Al Capone scattarono le manette non per mafia, ma per non aver pagato le tasse. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.